Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Avevo dei grandi dubbi su Tsipras, voglio fare pubblicamente a quell'uomo lì che si sta comportando veramente in una maniera straordinaria, e voglio dirlo pubblicamente, perché sta portando l'ultima parola al popolo greco che dovrà votare con un referendum. Questa è la democrazia che io vorrei portare, noi vogliamo portare in questo paese. Era un grillo un po' animato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che avete sentito, ha esaltato la scelta di Tsipras, primo ministro greco, che dopo il fallimento delle ultime trattative con i suoi creditori, con i creditori della Grecia, ha deciso di, avrete sentito, di lanciare un referendum tra il popolo greco per il prossimo 5 luglio, in cui chiederà se è il caso che la Grecia accolga le richieste dei creditori, quindi l'austerity, oppure se la Grecia debba uscire dall'euro. Voi cosa ne pensate? È una scelta giusta questa di affidare al popolo una decisione di questo tipo, e secondo voi che cosa dovrebbe votare il popolo greco? Naturalmente c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i messaggi è al 349-238-6666. Questo sarà l'argomento centrale naturalmente di questa sera, anche perché tra l'altro sapete che lunedì è una puntata più corta, quindi una buona parte di questa puntata di Effetto Notte sarà dedicata alla Grecia, con delle analisi per cercare di capire anche dove sta andando la Grecia, dove dovrebbe andare e che tipo di ulteriore compromesso potrebbe esserci. E poi naturalmente parleremo anche di altri temi, per esempio di questa svolta che c'è stata sul Catania Calcio. Intanto però vi racconto come sempre la giornata. La crisi greca, si va verso un vertice europeo straordinario. La cancelliera Merkel avverte: se fallisce l'euro, fallisce l'Europa. Panico sui mercati, pressing europeo sul referendum. La strage in Tunisia, primi arresti. Il killer faceva l'animatore nei resort di Sousse, addestrato dall'ISIS in Libia. 1000 agenti intanto nei villaggi. Campania, De Luca deposita il ricorso contro la sospensione. Le opposizioni attaccano. Per il Movimento 5 Stelle l'unica soluzione sarebbe tornare al voto. Parigi, nuovo stop a Uber Pop, fermati due capi del servizio taxi di Google nelle indagini sui servizi illegali. Inchiesta Fonsai, Paolo Ligresti, figlio di Salvatore, si è costituito dopo 2 anni di latitanza. Il naufragio dei 700 morti nello stretto di Sicilia, la Marina avvia i recuperi dei corpi. Calcio e scandali, il presidente del Catania Pulvirenti durante l'interrogatorio confessa: comprate 5 partite del Catania. E partiamo quindi dalla situazione sempre più critica, dicevamo, della Grecia, dei rapporti tra Atene e i suoi creditori dopo il fallimento degli ultimi tentativi, insomma, di trattative tra la notte di giovedì e venerdì, e la possibilità anche di un default per la Grecia che si fa sempre più vicino, quindi un fallimento in attesa dell'esito del referendum che, vi dicevo, ci sarà il prossimo 5 luglio. Intanto la conferenza dei capigruppo dell'Unione Europea ha approvato a larghissima maggioranza, con l'astensione solo del Partito Popolare, la richiesta avanzata da Gianni Pittella dei Socialisti Democratici e di Jean-Claude Juncker, cioè la richiesta a Juncker di tenere nelle prossime ore un summit straordinario europeo. Nel frattempo l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato il rating della Grecia, cioè l'affidabilità finanziaria, da CC a CCC-, Outlook, quindi la previsione resta negativa per la Grecia. Poi ne parleremo in modo più approfondito, vi dicevo, con gli ospiti, ma c'è anche da sottolineare naturalmente il panico che ha affossato le borse. Mettiamola così, gli effetti della bancarotta di Lehman Brothers erano stati molto peggiori, ma è una consolazione relativa perché comunque la piega sinistra presa dalla questione greca ha dato la sua bella sberla alle borse. Dopo una settimana euforica in cui la convinzione generale era che l'accordo fosse ormai fatto, ingranare la retromarcia è stato un attimo. In tilt gli investitori di mezzo mondo che non riescono proprio a quantificare le conseguenze della Grexit, e così, nell'incertezza, si sono liberati del rischio Grecia, pur non potendo operare sul listino di Atene chiuso fino al 7 luglio. In apertura di giornata subito giù le borse asiatiche, lo spread fra BTP e Bund vola a 190 punti per poi ridimensionarsi a 158, ma solo grazie agli acquisti sul mercato secondario effettuati dalla Banca Centrale Europea. Tensione stellare per le obbligazioni greche sprovviste del paracadute di Draghi, il tasso del titolo biennale arriva al 33%, il decennale oltre il 10%, e a metà pomeriggio Borsa Italiana sospende sul circuito Euromot le negoziazioni sui bond ellenici. Otto volante per le borse che mandano in fumo 340 miliardi di capitale capitalizzazione. Parigi e Francoforte chiudono quasi a meno 4, Piazza Affari la peggiore di tutte, meno 5,17. Sotto pressione tutti i titoli bancari crollano, Monte dei Paschi meno 10, tra i 7 e gli 8 punti di calo per UbiBanca, Pop Milano, Mediolanum e Unicredit, ma nessun titolo del paniere principale chiude in positivo. Wall Street per fortuna regge, ma a spiccare il volo ci sono anche i beni rifugio, non oro o franco svizzero, bensì le materie prime agricole, grano e mais. Chissà, anche questo. Che segnale è? Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il Ministero del Turismo greco assicura che non esistono problemi per i turisti che sono o arriveranno in Grecia, spiegando che le misure che limitano la circolazione di capitale, quindi anche la possibilità di prelevare dei bancomat, non riguardano chi usa carte emesse all'estero. Adesso parliamo delle reazioni italiane. Renzi twitta che il referendum greco non sarà un derby tra Tsipras e la Commissione europea, ma tra l'euro e la dracma. Prevale la cautela sulla Grexit. Il premier Matteo Renzi twitta che la scelta non è tra l'Unione e Tsipras, ma tra l'euro e la dracma. E tutte le forze politiche vorrebbero un accordo, anche se con diverse sfumature. Da parte di Forza Italia, Renata Polverini chiede al governo di non abbandonare Atene. Maurizio Gasparri vuole meno austerità, ma giudica la scelta di Tsipras suicida. Renato Brunetta, invece, appoggia il referendum del premier greco perché questa Europa è solo di burocrati. Da parte della Lega Nord, per Matteo Salvini, grazie alla Grecia è iniziata una nuova era e torna ad affacciarsi un po' di speranza per liberarsi da questa gabbia. Stessa posizione anche del Movimento 5 Stelle, che critica di aver lasciato solo Tsipras per il cambiamento delle regole europee. Un errore di Renzi e degli altri leader socialisti. Da parte dei dissidenti Dem, Gianni Cuperlo chiede di convincere Bruxelles a riaprire la trattativa, mentre per Alfredo Dattorre il governo non deve limitarsi a rassicurare gli italiani sui rischi di contagio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo di nuovo all'estero, la strage dei turisti in Tunisia. Il ministro dell'interno tunisino ha annunciato una serie di arresti per l'attentato di Sousse. Fiori al posto dei Kalashnikov. La risposta dell'Occidente alla strage di Sousse sono fasci di rose deposti sulla sabbia bianca e un messaggio: non siete soli. I ministri dell'interno di Gran Bretagna, Francia e Germania arrivano in una Tunisia blindata, dove i turisti, quelli che non sono subito ripartiti, ora vivono praticamente scortati nei resort, con mille agenti che girano tra i bagnanti. E arrivano i ministri dei paesi più colpiti dalla strage nel giorno di nuovi arresti. 7 persone sarebbero state fermate tra Sousse, Tunisi e Kasserine per il massacro di turisti di venerdì scorso. Sarebbero membri della stessa cellula terroristica di Seyfedin Rezgui, lo studente appassionato di breakdance divenuto lo spietato killer di 38 persone. La sua cellula sarebbe stata operativa in Siria ed era ancora attiva, quanto riferisce l'associazione sindacale studentesca a Kairouan, senza controlli. Rezgui forse aveva lavorato come animatore nei resort, forse nello stesso Rio Imperial Maraba, ma l'hotel smentisce. La Tunisia ora prova a reagire alla nuova strage, ma quell'attacco riaccende l'allarme soprattutto in Gran Bretagna, dove la polizia parla di un esplicito rischio attacchi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed ora in Iran, perché i negoziati sul programma nucleare dell'Iran andranno avanti molto probabilmente anche dopo la scadenza che era stata prevista, quella del 30 giugno, lo ha confermato il portavoce della Casa Bianca. Adesso invece in Francia, con una questione molto diversa, sono stati fermati 2 dirigenti di Uber Pop. Un'applicazione, quella di Uber Pop, sotto accusa in Francia, anche se non solo in questo paese. E dopo le proteste e i roghi dei giorni scorsi scatenati dai tassisti francesi, sono stati arrestati 2 leader della compagnia, proprio i responsabili della filiale francese del servizio di auto private contestato dai tassisti, che nei giorni scorsi avevano inscenato duri scontri ed episodi di violenza, e il prefetto di Parigi aveva deciso di vietare Uber Pop per decreto. Una richiesta espressa direttamente dal governo, spinta dall'azienda che aveva annunciato l'intenzione di proseguire fino a una sentenza definitiva di un tribunale. L'inchiesta sulla app della compagnia, che ha scatenato i conducenti di taxi muniti di regolare licenza, risale al 2014, quando fu aperta su questa applicazione a stelle e strisce, utilizzata per mettere in contatto i clienti con autisti privati e che consente a chiunque di improvvisarsi tassista con la propria auto e con tariffe molto più economiche, che non devono sottostare alle stesse norme dei tassisti. Applicazione che, secondo l'ultimo round di finanziamenti, ha una valutazione da 50 miliardi di dollari, ma i 2 dirigenti sono stati messi subito sotto interrogatorio dalla polizia, accusati di servizi illegali e dissimulazione di dati informatici. Il braccio di ferro in Francia continua. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E non si placano le polemiche in Turchia dopo l'intervento di ieri delle forze dell'ordine per disperdere il 13° Gay Pride di Istanbul. La sfilata dell'orgoglio omosessuale, che sarebbe dovuta partire da Piazza Taksim, è stata vietata solo in tarda mattinata ed era prevista, nonostante tutto, dopo da 2 settimane. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa per disperdere migliaia di manifestanti con proiettili di gomma, gas lacrimogeni, cannoni ad acqua. Sono tante le condanne che sono arrivate nei confronti delle autorità turche. Sono scioccato, molto deluso dalla repressione della polizia, così ha scritto il commissario europeo per i diritti umani. E siamo alla politica italiana, paralisi in Campania dopo la decisione del neoeletto presidente di ricorrere contro il decreto di sospensione emanato dal governo. Protestano le opposizioni che chiedono di tornare al voto. Un ricorso, quello di De Luca, contro la decisione di Palazzo Chigi, che era nell'aria ma che ora è nero su bianco depositato al Tribunale di Napoli. Il neogovernatore punta dunque all'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio con il quale è stata disposta la sua sospensione dalla guida della Regione Campania. Due i precedenti che, secondo la difesa di De Luca, boccerebbero la legge Severino, i dubbi di costituzionalità della Corte d'Appello di Bari e la recente sentenza a favore del Sindaco di Napoli De Magistris dello stesso Tribunale del capoluogo campano. Il ricorso di De Luca è inutile, commentano però dal centrodestra. La regione senza guida, accusa la Carfagna di Forza Italia. L'unica soluzione è tornare al voto, attacca dal Movimento 5 Stelle Di Maio. Altra regione al centro dei riflettori, il Veneto. Il presidente Zai ha presentato all'aula del Consiglio regionale la composizione della nuova giunta. Si tratta di un esecutivo di 10 membri con età media di 45 anni, 3 le donne, 2 gli assessori confermati. Quanto al programma, il lavoro è la priorità, dice Zaia, per una regione che ha ancora 170.000 disoccupati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora la cronaca. Dopo 2 anni di latitanza, Paolo Ligresti si è costituito per il crack Fonsai. Si è chiusa dopo quasi 2 anni la latitanza in Svizzera di Paolo Ligresti, figlio di Salvatore, ex patron del gruppo fondiario Assai. Paolo Ligresti questa mattina si è costituito alla frontiera tra l'Italia e la Confederazione Elvetica e si trova ora agli arresti domiciliari nella sua abitazione nel nostro paese. Il figlio dell'ingegnere di Paternò è accusato di manipolazione del mercato e falso in bilancio in merito ai conti di Fonsai del 2010 e a suo carico è in corso un procedimento in fase di udienza preliminare al Tribunale di Milano. Inizialmente era stato indagato dalla Procura di Torino e nel luglio 2013 era stato tra i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, insieme alle sorelle Ionella e Giulia, mentre il padre era stato messo a domiciliari. Al contrario della sua famiglia, però, Paolo Ligresti è diventato cittadino svizzero e quindi non fu possibile eseguire l'arresto nei suoi confronti, almeno fino ad oggi, quando ha deciso di costituirsi, visto che l'ordinanza di arresto è stata tramutata in arresti domiciliari. Flavia Carletti, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è anche una notizia che riguarda, vi ricordate, il naufragio dei 700 immigranti. Su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono iniziate nello stretto di Sicilia le operazioni di recupero dei corpi dal peschereccio che si era inabissato lo scorso 18 aprile con circa 700 persone a bordo, per l'appunto. E c'è una notizia invece che riguarda l'editoria Mondadori, è una notizia attesa. Ha sottoposto a RCS Media Group un'offerta vincolante avente per oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione detenuta in RCS Libri pari al 99,99% del capitale sociale, nonché dell'ulteriore complesso di beni e attività che costituiscono l'ambito librario di RCS Media Group, lo annuncia la società in una nota. Una notizia buona è anche che domani torna in edicola l'Unità, il quotidiano Unità. E poi per lo sport calcio c'è la clamorosa svolta arrivata da Catania sulle gare truccate dell'ultimo torneo di Serie B. Il presidente del club Etneo Pulvirenti ha confessato durante l'interrogatorio di aver comprato almeno 5 partite. Poi ci occuperemo anche di questo tema. Invece si parla dei primi passi per il Parma post fallimento con la fondazione della società Nuovo Inizio SRL, un nome, un programma che avrà la maggioranza del Parma Calcio 1913 e punta a chiedere l'affiliazione alla FIGC per il campionato di Serie D. Nella cordata di imprenditori parmigiani c'è anche Guido Barilla, sembra a titolo personale, e Giampaolo Dallara dell'omonima azienda di auto. Indiscrezioni vorrebbero un ritorno di Parmalat come sponsor e poi il presidente del club dovrebbe essere Nevio Scala. Per il tennis è iniziato oggi il torneo di Wimbledon sull'erba più prestigiosa al mondo, risultati alterni per le azzurre, subito eliminate Roberta Vinci e Flavia Pennetta, va invece a Sarerrani in 3 set il derby con Francesca Schiavone. Bene, ci lasciamo per aggiornare chi viaggia. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte per commentare questa scelta di Tsipras di chiedere al popolo con un referendum se aderire alle richieste dei creditori, al piano di aiuti, eccetera, oppure se decidere, insomma, di ritirarsi, di uscire evidentemente dall'Eurozona. Qualcuno dice non è un referendum sull'euro, però praticamente diciamo che la comunità europea ha paura di questo. Qualcuno scrive: Franco, Tsipras ha fatto benissimo e spero vincano i no quelli che vari Juncker e Merkel non capiscano, e che se fanno crollare Tsipras ci sarà Alba Dorata, cioè il movimento di estrema destra. Tsipras, dice un altro ascoltatore, il suo entourage sono dei cialtroni dilettanti, ideologia ferma 70 anni fa. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Guardavo ancora i vostri messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito, vi dicevo, della decisione di Tsipras che fa scegliere al popolo con un referendum previsto per il 5 luglio se approvare o meno un accordo con i paesi dell'Eurozona. E scrive per esempio Stefano: la Troica si è comportata come un volgare strozzino, cioè Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Dice: gli stati che hanno aderito all'euro avrebbero dovuto democraticamente effettuare un referendum prima di entrare, non responsabilmente per uscirne, non irresponsabilmente per uscirne. Andrea: il referendum è uno strumento della democrazia, è bene usarlo nelle scelte importanti. Tsipras fa scegliere al popolo sovrano e fa bene, mi sembra possa essere una risposta corretta alle inaccettabili proposte dell'Europa. Rosanna scrive: Tsipras ha fatto promesse che non è in grado di mantenere, è stato eletto democraticamente, quindi il popolo gli ha dato mandato di governare, di prendere lui le decisioni che devono essere prese. Scaricare la responsabilità sui poveri greci, dice, insomma, non è corretto. Allora, voi continuate con le vostre riflessioni, io vi riassumo brevemente, se avete acceso la radio in questo momento, anziché alle 21 puntualmente, le notizie più importanti. Panico in borsa sulla Grecia, l'Europa brucia 278 miliardi, si va verso un euro summit straordinario. Intanto c'è la pressione, il pressing da parte dell'Europa sul referendum, nel senso verso il popolo greco, votate sì. Tunisia: il killer faceva l'animatore nei resort di Sus, è stato addestrato dall'ISIS in Libia, intanto sono stati messi 1000 agenti nei villaggi. Pulvirenti, presidente del Catania, confessa: comprate 5 partite dal Catania, questo durante l'interrogatorio lo ha detto. Campania: De Luca deposita il ricorso contro la sospensione, l'opposizione attaccano, il Movimento 5 Stelle dice l'unica soluzione è tornare al voto. L'inchiesta Fonsai, Paolo Ligresti, che era latitante da 2 anni, si è costituito a Chiasso. E poi pugno di ferro della Francia su Uber Pop, fermati 2 capi interrogati dalla polizia nelle indagini sui servizi illegali. Ce n'est pas un jeu de poker menteur. Il n'y en a pas un qui gagne et un autre qui perd. Soit on est tous gagnants, soit on est tous perdants. Ce n'est pas un jeu de poker, il n'a pas chi gagna e un altro chi perde, dice Juncker, lo avete sentito, nel senso che dice questa non è una partita, quella della Grecia, a poker dove c'è chi vince e chi perde, qui se va male perdiamo tutti. E insomma la situazione è sempre più tesa, lo avete sentito con il fallimento a fine settimana scorsa degli ultimi tentativi di negoziato tra Grecia e i suoi creditori, cioè i paesi dell'Eurozona, la Banca Centrale e il Fondo Monetario Internazionale, dopo colloqui che vanno avanti da mesi e che riguardano le condizioni alle quali l'Europa è disposta a concedere un ulteriore prestito alla Grecia. Sabato sera il Parlamento greco ha approvato la proposta di Tsipras di tenere un referendum che è stato fissato, vi dicevo, per il prossimo 5 luglio. Ne parliamo, a parte che è stato un lunedì nero per le borse, poi quindi si possono immaginare le ripercussioni. Ne parliamo con Vittorio Darold del Sole 24 Ore da Atene. Ciao Vittorio. Buonasera a tutti. Ciao Vittorio, c'è Dimitri Deliolanes che è corrispondente in Italia per il canale televisivo greco RT, autore della Sfida di Atene, Tsipras contro l'Europa dell'austerità. Buonasera Deliolanes. Buonasera, ciao Vittorio. Mi conoscete, ciao. Tra voi, quindi un'occasione per salutarsi. Vittorio, hai tentato varie volte di spiegare da dove veniva questa situazione così difficile della Grecia, e adesso c'è chi accusa la Grecia di continuare a fare un gioco un po' a rimpiattino, chi invece dice che gli strozzini sono quella che una volta era Troica, poi questo nome non piaceva, e insomma comunque sono i creditori, la Banca Centrale Europea, l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale. internazionale. Ci riassumi brevemente come stanno, come sono partite le cose? Sì, le cose sono partite appunto nel 2009 con la vittoria di Giorgio Papandreou, che quando arriva al potere promettendo di aumentare i salari e stipendi eccetera, si accorge che invece i conti lasciati dal precedente governo Karamanlis sono in una situazione disastrosa, un deficit che invece che del 3% piano piano si scopre va fino al 15%. Insomma, una situazione completamente fuori controllo, e quindi da lì nasce questo calvario che dal 2009 ha avuto due piani di ristrutturazione: il primo del 2010 con appunto 110 miliardi sul piatto, e il secondo nel 2012 con altri 130 miliardi, e siamo a 240 miliardi complessivi che tutti i creditori, compresi Fondo Monetario, Banca Centrale Europea e l'Unione Europea, hanno messo sul piatto. In questo momento questa crisi ultima, questo negoziato che è saltato venerdì, è stato veramente incomprensibile se pensiamo a tutto quello che è già stato fornito. Si parla di motivi così banali per una rottura naturalmente sull'IVA, per la ristorazione dal 13 al 23% o per togliere un'indennità per le pensioni minime. Cioè, veramente stiamo parlando di poca cosa, di noccioline rispetto alla cifra complessiva. Questo è il debito maggiore della storia moderna, cioè 5 volte quello dell'Argentina, per renderci conto. Sotto il Partenone si decide in poche parole il destino dell'euro, se è una moneta irreversibile o un'unione monetaria a cambi fissi. Questo è quello che stanno decidendo i greci. Io ho in mano un euro con la nottola di Minerva, che naturalmente potrebbe non essere più appunto una moneta a corso legale, e dietro c'è l'Europa con la Grecia, e di questo stiamo parlando, quindi è veramente una scelta fondamentale per tutti. Punto di vista di Deliolanes, Dimitri, fra l'altro questo referendum del 5 luglio a cosa punta? Allora, questo referendum il governo spera di ottenere la vittoria del no in modo da presentarsi ai nuovi negoziati che inizieranno inevitabilmente il giorno dopo o due giorni dopo con un mandato popolare rafforzato respingere, diciamo così, i tentativi di nuove misure di austerità. Volevo una precisazione. Prima lei ha parlato di discussioni su un nuovo prestito. Non c'è nessuna discussione su nessun nuovo prestito. Le discussioni riguardano il completamento del processo per il prestito del 2012, quelli 7 miliardi e 2 che sono rimasti da parte dell'Unione Europea e circa 19 miliardi da parte del Fondo Monetario Internazionale. Il nuovo prestito è stata una ipotesi di Schäuble che la Grecia ha sempre respinto. Ma Vittorio Darolde, ho visto che non solo fa pressione gli Stati Uniti, che certamente non è la prima volta, no, che Obama interviene, ma vedevo anche agenzie che riguardavano la Cina, primo ministro cinese, il Giappone. Quindi sembra quasi che abbiano più paura la comunità internazionale che non la stessa Grecia di quello che potrebbe succedere. Sì, guarda, in questo momento in Piazza Sintagma ci sono le televisioni di tutto il mondo. Ho visto pochi minuti fa quello della CNN, c'è appunto quello cinese, c'è quelli sudamericani, asiatici, cioè c'è tutto, diciamo così, il mondo dei media globali. Perché? Perché oggi anche il primo ministro cinese a Bruxelles ha parlato con Juncker e Donald Tusk e gli ha detto noi vogliamo che la Grecia resti nell'euro. Perché? Perché i cinesi hanno investito moltissimo nel Pireo, nel porto del Pireo, stanno facendo quindi investimenti, vogliono anche una stabilità europea. Quindi c'è pressione da parte di Washington, del presidente Obama, è veramente una crisi anche geopolitica che sta coinvolgendo tutti, e gli europei in questo momento non stanno dando prova di quella solidarietà su cui noi abbiamo sempre puntato il nostro modo di essere uniti e diventare appunto protagonisti nello scenario globale. Quindi è veramente una situazione incredibile dove una questione che è chiara a tutti gli altri protagonisti mondiali sembra esserlo meno a Bruxelles e a noi stessi europei. Io vorrei chiedere però a Delio Lanes, appunto, a parte tutto questo giustamente pressione, interesse che c'è intorno, i greci, secondo te, Dimitri, vista la manifestazione, una manifestazione di migliaia di persone che dicono di no già al referendum, secondo le tue previsioni come potrebbe andare questo? Allora, le mie previsioni sono che quando il giorno dopo l'annuncio di Tsipras del referendum c'era un grandissimo corrente di sostegno in favore del referendum, perché ovviamente vedersi tagliare le pensioni non piace a nessuno e tutti quanti, anche in questo periodo di trattative, hanno sempre apprezzato la posizione intransigente su alcune questioni del Premier e anche la sua volontà di negoziare fino alla fine. Dopo però i provvedimenti sulle banche, ovviamente ci sono sentimenti di paura, di preoccupazione che cominciano ad emergere, per cui francamente io non sono in grado di fare previsioni. Ci sono questi due sentimenti: da una parte orgoglio, noi siamo stati maltrattati per 4 anni dall'Unione Europea, non vogliamo più questo tipo di trattamento e quindi no, qualsiasi cosa significhi. D'altra parte però appunto il sentimento di paura, di preoccupazione, stiamo navigando in acque inesplorate, chissà cosa succede, potrebbe siamo già messi male, però potremmo anche stare peggio. Già, adesso invece, a proposito di stare peggio, si parla appunto del possibile effetto domino che ci sarebbe in particolare per esempio per l'Italia. Sentiamo che cosa ha detto oggi il ministro dell'economia Padoa. Innanzitutto non è l'Europa che sta facendo fallire la Grecia, ma casomai sono le scelte del governo greco che non sono, a mio avviso, adeguate alle necessità della Grecia. L'Europa al contrario sta dimostrando una grande coesione e sta facendo di tutto per non solo mantenere l'integrità della zona euro, ma per rafforzarla. Adesso sentiamo invece che cosa ha detto appunto a proposito del rischio contagio. La zona euro è molto forte, le istituzioni e gli strumenti disponibili per fronteggiare eventuali instabilità o possibili ma non probabili effetti di contagio ci sono tutti. Sono tranquillo per due ragioni: una è che la stabilità di fondo dell'economia italiana si è molto accresciuta e rafforzata, e che secondo, ma questo non riguarda l'Italia in particolare, vorrei sottolinearlo con molta forza, se ci fossero fenomeni di instabilità di breve termine la Banca Centrale Europea ha tutti gli strumenti a disposizione per evitare che questa instabilità diventi eccessiva. Vittorio Darold, gli scenari quali sono? Diceva una cosa interessante prima Dimitri Delio Lanes, che diciamo la prospettiva è probabilmente quella che dopo il referendum Tsipras, se vincerà il no, si senta mandato più forte da parte del suo popolo per tornare a negoziare. Ma la stessa Merkel, la cancelliera Merkel, proprio oggi ha ribadito che, a parte dire che se fallisce la Grecia fallisce l'Europa, ma ha detto però teniamo aperta la porta, anche dopo il referendum possiamo riprendere i negoziati. Quindi questo referendum alla fine quasi sembra più simbolico che non altro. Sì, effettivamente sembra che tutti si siano accorti che ha messo in moto un meccanismo da cui esiti è veramente molto pericoloso. Io faccio presente che questo referendum potrebbe creare veramente gravi incertezze e soprattutto aprire scenari che nessuno può oggi veramente verificare e valutare, perché naturalmente Tsipras ha fatto questo azzardo, ma ha messo una forte tensione soprattutto a Berlino e soprattutto su Angela Merkel, che in qualche modo ha capito oggi qual è la posta in gioco, perché è l'eredità del suo mentore politico di Kohl, che aveva riunificato la Germania ed era stato appunto un grande europeista. Lei rischia di passare alla storia come quella che invece in qualche modo distrugge questo lavoro europeo. Delio Lanes, per chiudere, qual è lo stato d'animo adesso dei greci, come vivono e effettivamente il loro interesse è stare dentro o fuori l'euro? No, beh, il mandato dato a Tsipras alle elezioni di gennaio era chiarissimo. Tu devi dare battaglia per combattere la politica di austerità che ci è stata imposta per ben 4 anni con risultati disastrosi, però senza rompere con l'eurozona. Infatti i sostenitori del sì, che l'abbiamo sentito oggi, erano anche esponenti di punta dell'Unione Europea, fanno questa associazione per dire sì, il sì è per l'Europa e il no è contro l'Europa. Quindi è evidente che questo influenza una parte dell'elettorato, perché come dicevo prima i greci non vogliono assolutamente uscire né dall'eurozona e tantomeno dall'euro. Dopodiché devo anche confessare che sentirsi dire da esponenti politici stranieri come devono votare in Grecia funziona un po' come boomerang. Quindi lo sappiano. Sì, francamente, insomma, se mi potesse sentire Juncker gli avrei suggerito, insomma, di stare zitto. Più anche cauti. Ecco. Grazie Dimitri De Leolanes, grazie Vittorio Darold. Il 5 luglio è tra pochi giorni, nel frattempo potrebbero succedere altre cose. Intanto voi continuate con le vostre riflessioni su questo referendum, sulla scelta di Tsipras appunto di affidare al popolo una decisione di questo tipo. 349-238-6666 il numero per i messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Nota, che è sempre lì per voi. Tra poco. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vedo che anche voi naturalmente sempre in ascolto, e anche qualcuno con i messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte o ai sms al 349-238-6666. A proposito della difficile crisi della Grecia e di quanto ha deciso sabato il primo ministro Tsipras, dicendo basta, allora a questo punto il 5 luglio facciamo un referendum, visto che diciamo c'è stato questo strappo a sorpresa tra Atene e i creditori, ha detto Tsipras, decida il popolo greco se vuole andare avanti con le richieste dell'eurozona, oppure se vogliamo sfilarci da questo pressing. Dice un ascoltatore al 349-238-6666, Fabio dice non è un referendum sull'euro, già ne avevamo parlato prima, insomma la comunità europea di questo ha paura, dice Tsipras non credo ci vogliano cacciare dall'euro. Adesso stanno uscendo una serie di agenzie di dichiarazioni che Tsipras sta facendo, dice la gente ha diritto di scegliere il proprio futuro, affronteremo i ricatti, la folla ci dà la forza, anche perché ci diceva poco fa Vittorio Darold che in piazza ad Atene c'era molta gente che stava manifestando. Qualcun altro scrive il popolo decide, non altri, il referendum è doveroso. E poi sulla pagina Facebook di Effetto Nota, queste sono ore febbrili insomma per la Grecia e non solo, visto i riverberi che ci sarebbero un po' a livello mondiale, tanto che ci parlavamo prima della pressione degli Stati Uniti ma anche del Giappone e della Cina. Andrea dice il referendum è uno strumento della democrazia, è bene usarlo nelle scelte importanti, Tsipras fa scegliere al popolo sovrano e fa bene, mi sembra possa essere una risposta corretta alle inaccettabili proposte dell'Europa. Domenico, ottima scelta quella di dare la parola al popolo, alla democrazia, l'Europa ha dimostrato di essere un carrozzone che serve a nulla che votassero no e che escano dall'euro. Francesca dice non si può affamare un popolo. Bene, mentre continuate con le vostre opinioni, adesso vi riassumo velocemente le notizie più importanti, visto che tanti accendono poi in momenti diversi, poi riprendiamo un altro tema. Abbiamo parlato della crisi greca, si va verso un vertice europeo straordinario, doveva esserci in queste ore, ancora non sembra che parta, ma la cancelliera Merkel avverte: se fallisce l'euro fallisce l'Europa. Panico sui mercati, pressing europeo sul referendum. La strage in Tunisia, primi arresti, il killer faceva l'animatore nel resort di Sousse, addestrato dall'ISIS in Libia. Intanto sono stati disseminati 1000 agenti nei villaggi. Campania, De Luca deposita il ricorso contro la sospensione, le opposizioni attaccano, per il Movimento 5 Stelle l'unica soluzione è tornare al voto. Parigi, nuovo stop a Uber Pop, fermati due capi del servizio taxi di Google nelle indagini sui servizi illegali. L'inchiesta Fonsai con Paolo Ligresti, che era latitante da 2 anni e che si è costituito nell'ambito appunto dell'inchiesta Fonsai. Il naufragio dei 700 morti nello stretto di Sicilia, inizia la Marina il recupero dei corpi. E per calcio e scandali, il presidente del Catania Pulvirenti durante l'interrogatorio confessa quello di cui parleremo tra pochissimo. E ne parliamo con Pippo Russo, sociologo, giornalista, autore di Gol di rapina, il lato oscuro del calcio globale. Ciao Pippo, bentrovato. Buonasera a voi ascoltatori. Allora, ritorniamo su questa, l'inchiesta diciamo più recente degli scandali del mondo del pallone, quello che riguarda il club del Catania. La notizia, la svolta in questa inchiesta denominata i treni del gol, perché nelle intercettazioni i calciatori che dovevano essere corrotti venivano definiti come dei treni in arrivo. La novità è che il presidente del Catania Calcio, Nino Pulvirenti, ha ammesso le prime responsabilità davanti al GIP di Catania nel corso dell'interrogatorio. Ha confessato che per evitare la retrocessione della squadra avrebbe acquistato alcune partite del campionato di Serie B pagando 100.000 euro per ciascuna di queste partite truccate. Lui, Pulvirenti, poi ha negato di aver mai scommesso lui sulle gare, quindi dice che lui non ha preso soldi poi da queste cose, anche se i legali, Pippo Russo, dicono in una nota, hanno precisato che sebbene il presidente abbia ammesso di aver avuto contatti per condizionare il risultato di alcuni incontri per salvare dalla retrocessione il Catania, tali contatti non avrebbero avuto alcuna reale incidenza sull'esito degli incontri. Quindi da una parte dicono sì, è vero, però poi non sono serviti a condizionare gli incontri, quindi ha pagato per niente. Qual è la questione, Pippo, secondo te? Mi sembra un tentativo grottesco, ecco, di confessare, però alleggerendo la posizione. Già. Intanto mi limito a ricordare che quando 6 giorni fa Pulvirenti venne arrestato, fece dichiarare tramite i propri legali di essere estraneo ai fatti e che avrebbe chiarito la propria posizione. Diciamo che oggi ha chiarito, e ha chiarito in modo totalmente contrario. Per quanto riguarda la spiegazione data dagli avvocati sul fatto che comunque il tentativo di corruzione non sarebbe andato in porto, intanto bisogna chiedere se questi 100.000 euro a partita effettivamente siano stati consegnati e siano circolati, e già sarebbe un passo avanti. Inoltre faccio presente che per i codici della giustizia sportiva basta già il tentativo di corruzione per configurare il reato più grave per un club di calcio, che è quello della responsabilità diretta di uno dei suoi massimi dirigenti. In questo caso già il fatto che Pulvirenti si sia predisposto a dare, che a quanto pare li abbia già dati, è già di per sé un fatto estremamente grave che compromette la situazione del Catania. Dopodiché dire che forse il tentativo non è andato in porto o che Pulvirenti non lo ha fatto per scommettere, ribadisco, sono dei tentativi di alleggerire, tentativi grotteschi, una posizione che è estremamente pesante per il presidente del Catania, ma soprattutto per il Catania, che a questo punto, stando ai codici di giustizia sportiva, va verso la retrocessione diretta. Appunto, ecco, questo ti volevo chiedere, quale può essere poi la conseguenza. Intanto però sentiamo proprio dalla viva voce del procuratore di Catania Giovanni Salvi quali sono appunto questi ultimi aggiornamenti, questi ultimi sviluppi. Pulvirenti ha reso un lungo interrogatorio nel quale ha ammesso che le partite a partire da quale? Da Varese e Catania sono stati oggetto appunto di acquisto, cioè vi è stata una compravendita di queste, sì, di queste partite. Secondo l'indicazione di Pulvirenti il costo di ogni partita è stato di 100.000 euro. Pulvirenti ha negato di avere scommesso sulle partite, ha detto appunto di avere fatto questa, di avere avviato queste modalità di gestione delle partite per salvare il Catania. questo il procuratore di Catania. Poi c'è da dire, Pippo Russo, che Cosentino, amministratore delegato, anche lui arresti domiciliari coinvolto in questa inchiesta, dice che lui non c'entra nulla. Sentiamo il suo legale. Il mio assistito non ha detto nulla di particolare, soltanto che non c'entrava nulla con quanto ha letto nell'ordinanza di custodia cautelare. Chiaro che il giudice gli ha chiesto che opinione si è fatta e lui ha risposto che se è vero quello che c'è scritto qui è una follia. Questo è quello che ritiene il signor Cosentino, il quale dice che quello che è accaduto sarebbe stato incompatibile con il suo ruolo nel Catania Calcio, perché se il suo ruolo è stato quello di costruire una squadra che doveva essere all'altezza di vincere il campionato, andare a corrompere per vincere le partite sarebbe stato come ammettere il suo fallimento. Sentito Pippo. L'azione a scagionare Cosentino è debole, piuttosto va detto che nelle intercettazioni che fin qui abbiamo ascoltato non compare mai la voce di Cosentino. Ecco, questo è un dato di fatto che possiamo dare per assodato. Poi è ovvio che di questa inchiesta dobbiamo conoscere ancora tante cose, certo. I dettagli, gli elementi che abbiamo sono ancora limitati e sfumati. Però al momento mi pare che la posizione di Cosentino sia tutto sommato quella meno debole rispetto a tutto ciò che sappiamo. Pippo, tra l'altro domani ho visto questa notizia, questa agenzia, che c'è un vertice tra il presidente della FGC Tavecchio e il procuratore federale Stefano Palazzi per fare il punto sulle inchieste. Però non viene il dubbio che, visto che Pulvirenti è un uomo che non è appena approdato, no, nel mondo del calcio, che ha quel livello così alto dirigenziale, il fatto che lui abbia fatto questa cosa con una certa tranquillità, una certa sfrontatezza, cioè lui che ci mette la faccia per pagare 100.000 euro a partita, non ti fa pensare che il fenomeno possa essere molto più diffuso di quanto possa sembrare? Ma di questo possiamo solo sospettare. Certo, se ci sono stati dei corruttori ci sono stati anche dei corrotti, in questo caso stiamo parlando di singoli calciatori, però dobbiamo stare ad aspettare le risultanze dell'inchiesta, che potrebbe anche allargarsi. Nella fattispecie di Pulvirenti, appunto, fa abbastanza stupire il fatto che un dirigente che ha ricoperto anche degli incarichi importanti in Lega si sporchi così direttamente le mani, cioè doveva essere arrivato a un livello tale di disperazione e di frustrazione per i risultati mancati da aver perso completamente la bustola e da comportarsi anche in modo grossolano, perché non dobbiamo dimenticare che le intercettazioni dell'utenza telefonica di Pulvirenti partono da una sua denuncia per minacce ricevute, o presunte minacce ricevute dagli ultra. Quindi un uomo che sa di essere intercettato e parla così allegramente al telefono è probabilmente un uomo che ha perso un po' il contatto con la realtà. Così pare. Grazie tanto Pippo Russo. Grazie a voi, buona serata. Ciao Pippo, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedevo ancora il messaggio di Tiziano al 349-238-6666 che dice: Tsipras ha fatto bene a porre la questione euro sì o no al popolo. Non è forse vero che l'Unione Europea ha imposto anche al nostro paese sacrifici e riforme controverse come quella del lavoro, della scuola o il trattato commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea? Così dice Tiziano. Intanto però vediamo di nuovo quali sono le notizie più importanti. La Grecia, la trattativa che è in stallo, anzi c'è stato proprio uno strappo con il referendum in vista per il 5 luglio, intanto panico in borsa, l'Europa brucia 278 miliardi, si va verso un euro summit straordinario. E poi Tunisia, il killer che ha fatto la strage di turisti, faceva l'animatore nei resort di Sousse, è stato addestrato dall'ISIS in Libia e poi sono sparsi adesso vari agenti che controllano i villaggi. Pulvirenti, abbiamo appena parlato, il presidente del Catania confessa: abbiamo comprato 5 partite per evitare la retrocessione. In Campania il governatore De Luca che deposita il ricorso contro la sospensione, c'è la protesta delle opposizioni. L'inchiesta Fonsai, Paolo Ligresti si è costituito a Chiasso, il figlio di Salvatore Ligresti che era latitante da 2 anni in Svizzera. E adesso parliamo con Enrico Paglierini, venuto qui a trovarmi. Ciao Enrico. Buonasera, buonasera. Parliamo di 2 novità. Una riguarda le Olimpiadi, i diritti TV. Sì, no? Questa è una novità che riguarda il mondo del televisivo. Però volevo partire da una ancora non novità, speriamo che diventi una novità, che riguarda invece il roaming. Quando parliamo di telefonini, di telefonate. Esatto, quando andiamo all'estero per lavoro, per turismo, paghiamo la classica tariffa di roaming con il gestore di telefonia mobile del paese che ci ospita, no? Allora, qui paghiamo molto, di più in sintesi. Paghiamo una piccola quota in più. Allora, da un po' di tempo l'Unione Europea ha imposto una riduzione di queste tariffe. Quindi oggi diciamo che si paga un po' di più, ma non tantissimo di più. Da molto tempo c'è una sorta di balletto e di litigio tra il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo, quindi tra gli Stati e il Parlamento Europeo, perché il Parlamento Europeo vorrebbe abolire le tariffe di roaming. Un po' più prudenti sono gli Stati, allora si va avanti da mesi di discussione. Allora alle 22, quindi fra una decina di minuti, inizia una nuova riunione che è coordinata dalla presidenza lettone dell'Unione Europea, che fra poche ore, dal primo di luglio, passerà il testimone a Lussemburgo. Allora evidentemente vogliono finire facendo una buona figura. Stanno tentando insomma, un nuovo compromesso. Allora, le ultime sono che il Parlamento chiede la fine dei costi di roaming dal 2016. Gli Stati, cioè il Consiglio Europeo, dice no, dal 2018, che diciamo che gli Stati stanno un po' più vicino agli operatori di telefonia mobile. Allora, il compromesso dei lettoni è no, vabbè, terminiamo il 2017, una via di mezzo. Però non so se si metteranno d'accordo. Quindi andrà avanti come la trattativa greca questa. Sì, anche forse un po' populista questa voglia. Però di non è che ci dispiacerebbe. Sì, no? C'è però il problema, visto che le tariffe di roaming dipendono anche dal costo della vita, c'è chi effettivamente gli operatori di telefonia mobile dicono sì, ok, però se aboliamo le tariffe di roaming succede che poi uno si va a acquistare magari la SIM in Polonia, adesso ipotizziamo che in Polonia costi molto meno che in Italia, e poi la usa in Italia, quindi per spendere meno. Quindi un pochettino probabilmente ci saranno dei limiti, cioè si aboliscono le tariffe di roaming per 2 ore al giorno, per 1 ora al giorno, no, bisogna trovare effettivamente un compromesso di questo genere. Questo bisogna vedere tra una decina di minuti come riprende questa trattativa. Beh sì, riprende la riunione, non so fino a che ora va. Qua dipende se si mettono d'accordo subito oppure mentre notte. Sui diritti TV delle Olimpiadi. Sì, è una notizia molto interessante perché Discovery ha comprato i diritti per le Olimpiadi tra il 2018 e il 2024, stiamo parlando sia di Olimpiadi invernali che di Olimpiadi estive, per l'Europa per 1,3 miliardi. Allora, diciamo una cosa su Discovery, perché Discovery è un'azienda americana che ha TV, canali televisivi in tutto il mondo, in 220 paesi. In Italia opera sia sul digitale terrestre che sulla piattaforma Sky, su Mediaset Prime. Quindi sia in chiaro che sì, varie allora, possibilità. Ti cito due o tre nomi. Allora, sul digitale terrestre, Real Time, Giallo, K2, D-Max, Focus, Frisbee, cioè sono canali abbastanza famosi. Allora, sulla piattaforma di Sky, quindi a pagamento, è famosa Discovery per avere due canali che sono Eurosport e Eurosport. Eurosport insomma è un canale abbastanza famoso. Ecco, Eurosport diventerà a partire dal 2018 fino al 2024, in base a questo accordo con il Comitato Olimpico Internazionale, la TV delle Olimpiadi, e stiamo parlando di appuntamenti insomma molto attesi, e diciamo che è una novità abbastanza, fino adesso o Rai o Sky. Se quindi significa che chi non ha Sky non potrà vedere l'Olimpiadi? No, allora è previsto in questo accordo che una parte, una buona quantità di ore verrà trasmessa sul digitale terrestre, però su canali effettivamente abbastanza inconsueti, perché uno era abituato a vederli sulle TV, chiamiamole più note, più famose, nazionali, Rai, eccetera. Allora, cito le Olimpiadi che vedremo sui canali di Eurosport, e poi vedremo quale sarà poi la proposta, perché questo accordo vale per il digitale terrestre, per il satellite, per gli smartphone, per internet, multipiattaforma si dice. Allora, ci sono nel 2018 le Olimpiadi in Corea del Sud, sono le Olimpiadi invernali, località si chiama Pyeongchang. Poi 2020 Olimpiadi di Tokyo, i giapponesi stanno preparando già adesso, stanno lavorando in modo incredibile. Poi 2022 e anche 2024, sappiamo che 2024 stiamo candidata a Roma, quindi stiamo potrebbe essere, che ne so, l'Olimpiade, ammettiamo che arrivi a Roma, l'Olimpiade di Roma trasmessa sui canali di Discovery, quindi su Eurosport. È sicuramente una novità molto molto interessante. Direi a questo punto, caro Enrico, che ci salutiamo, che ci salutiamo, probabilmente avevi nient'altro da aggiungere, quindi una serie di... No, beh, sicuramente però questo è un accordo, al di là dell'accordo in sé, che, come dire, avrebbe potuto vincere un altro tipo, però il fatto che arrivi questo outsider... Ma è positivo? È una questione di potere? Sicuramente sì, punto, sì, di sì, soldi, beh, allora, Discovery è una TV, no, gigantesca nel mondo, però fino adesso, almeno dal nostro, dalla nostra piccola fetta... Si rischia il monopolio, queste... No, anzi questo... Perché ha vari canali, quindi... No, diciamo che questa è una buona notizia perché ci dice che ci sono altri player oltre ai soliti che c'è la concorrenza. Sì, sì, sì, sì. Grazie Enrico Paglierini. Buona serata o buona nottata. Ciao Enrico, ci sentiamo alle 22. Ciao.